tratta di uno studio commissionato dall'Alleanza Europea per la Salute Pubblica, che è una, appunto, una ONG commissionato dall'Alleanza e seguito da CED Health in collaborazione con Legambiente. Uno studio interessante, insomma, che ha tentato di trovare una correlazione tra quelli che potevano essere, stimare quantomeno, ecco, i costi legati all'inquinamento dell'aria, in particolare analizzando gli effetti dello smog, delle PM10 e degli NO2, degli ossidi di azoto, in particolare del biossido di azoto, rispetto appunto all'aumento dei costi sociali per la comunità. Da quanto è emerso, ecco, da questo studio, innanzitutto che c'è uno studio europeo che ha interessato diversi paesi, una trentina di paesi, UE e non UE, comunque in prossimità di UE, come esempio anche il Regno Unito, ha interessato diverse città, 435 città, all'interno delle top 25, ecco, le città in cui i costi sociali sono più elevati, ci sono diverse città italiane, cui chiaramente Roma, Milano, Torino. Rispetto al focus dell'Emilia Romagna, quello che si evidenzia è il costo pro capite della città di Parma rispetto ai costi sociali legati all'inquinamento, che ammontano a 1915 euro pro capite, e infatti Parma si attesta al sesto posto, ecco, nella classifica nazionale delle città analizzate per il nostro paese. Abbiamo poi altri indici di parametro, abbiamo anche dei costi totali annui, in cui chiaramente Bologna è al primo posto con più di 600.000 euro i costi, e poi c'è un terzo indice invece che riguarda la relazione tra il costo e il PIL, ecco, che vede Piacenza con costi sociali intesi come il 5,75% del PIL di riferimento, per cui chiaramente sono dei dati che ci portano a far riflettere su diverse questioni, su diversi aspetti. In particolare abbiamo evidenziato dall'Emilia Romagna il tema della deroga al blocco di diesel Euro 4, perché se da un lato sicuramente in certi casi cambiare il proprio parco auto per certe famiglie può essere sicuramente costoso, questo è vero, è chiaro che devono esserci poi un'offerta, ecco, di mobilità diversa e appunto anche economicamente sostenibile, però non dimentichiamoci appunto dei costi sociali, quindi delle esternalità negative che anche utilizzare questa tipologia di mobilità comporta, oltre ovviamente a portare il focus su tutte quelle serie di opere prioritarie che noi chiediamo da tempo sul territorio regionale, in particolare anche sul territorio bolognese, su cui sicuramente investire quelle risorse legate al recovery fund può creare delle condizioni migliorative rispetto appunto a problematiche legate al tema dell'inquinamento, che vede il nostro territorio sicuramente molto, molto al centro del dibattito. Voi sottolineate, insomma, chiedete fortemente il servizio ferroviario metropolitano, tema di cui si parla da almeno 20 anni, da chi ne ho memoria, e anche la questione del tram, opere che potrebbero contribuire anche a far ridurre il costo sanitario legato all'inquinamento dell'aria. Assolutamente, un investimento per la comunità, per migliorare lo stato ambientale, lo stato nostro di salute, e quindi di base anche la condizione legata ai costi sociali, che spesso non viene considerata, non viene evidenziata, ma che questo studio appunto ha voluto portare all'attenzione. Durante il lockdown abbiamo visto un sensibile calo degli inquinanti, appunto proprio perché le persone erano chiuse in casa. Questo però è stato di spunto per la politica, per i decisori politici, per cambiare approccio nella mobilità? Diciamo che allo stato attuale, ecco, gli interventi che si stanno facendo non sono certamente ancora sufficienti per raggiungere questi obiettivi. È chiaro che il lockdown ci ha dato una valida prova, ecco, di come il traffico automobilistico influisce su determinate tipologie di inquinanti, come appunto gli ossidi di azoto, che poi si traducono anche in particolato secondario possessivamente nel tempo, per cui è chiaro che andare a diminuire la presenza di questi inquinanti in atmosfera poi ha delle ripercussioni, queste tipologie di inquinanti nel breve termine, positive sull'ambiente e poi anche su altre tipologie di inquinanti successivamente, per cui è chiaro che questo riconoscimento e queste valutazioni ci devono portare a intervenire in maniera strutturale sugli aspetti della circolazione di determinati mezzi e su un'offerta appunto sfidante rispetto alla possibilità dei singoli, ecco, di utilizzare l'auto privata. E quindi di nuovo lamentiamo il tema che sicuramente l'ulteriore deroga del blocco di diesel Euro 4 non va certamente in questa direzione. Poi è chiaro che comunque all'interno ad esempio dell'Ice Prepare, ecco, che è il progetto che ha voluto analizzare anche vari aspetti in regione sui temi della qualità dell'aria, ha fatto una stima, ecco, anche rispetto all'impatto positivo i dipendenti della regione hanno sul tema della qualità dell'aria, utilizzando lo smart working invece di recarsi sul luogo di lavoro, in questo senso compensando la deroga del blocco G04. Chiaro che si tratta in realtà di una considerazione forzata rispetto al contesto che stiamo vivendo e non si tratta di base di parte di quelle soluzioni strutturali che chiediamo, che sono invece quelle che citavi prima, legate a una mobilità diversa e ad interventi specifici di strutture e infrastrutture legate proprio a questi aspetti.